ancora, che si è dormita. Sto guardando altra cosa. Sto guardando un video che stanno facendo con la pancetta, saluti stanno facendo. Io è che non c'ho un posto dove, capito, per la stagionatura come si deve, perché le salsicce le devo fare solo in quel determinato periodo, perché le metto su in soffitta a stagionare, ma le devo fare solo in quel periodo lì. Ci vuole il freddo, facciamo indietro. Noi facevamo il prosciutto in campagna, però stagionale lo mandavamo su in montagna, orribile, capito? Ehi, che zio, capita. Giallosso, se no devi andare come fanno molti macellai si comprano la cella apposita per la stagionatura, regolano la temperatura, l'umidità e se le fanno così, capito, ma a me così è artificiale, non mi piace. Cioè non è che non è giusto, dai, diciamo, preferisco il naturale. E qua purtroppo fa troppo caldo, non fa, dimmi. Beh, infatti ammazzo, ho già finito pure, se no non fa, cambia la temperatura parecchio. Cercando minamento mi ha prosciutto in campagna, ragazzi. Dopo però conoscevamo gente montagnina e lo davamo a loro a farlo stagionare, chi lo fa? No, non fanno. Guarda, fanno delle cantine in molti posti, ma anche qua a Sassari, guarda che è centro storico così, ci sono dei posti dove hanno delle cantine veramente eccezionali e che non sanno neanche loro che potrebbero fare tanto di quella roba, capito? E cantine con la giusta umidità. Io me li facevo nella cantina che avevo, però tutte le mattine io dovevo bagnare in terra per far sì che producesse quell'umidità giusta, perché poi l'umidità risale, capito? Così che faceva quell'effetto lì. Questo lo facevo quando ero fuori in continente, così mi avevano detto. Io avevo la cantina, appena entravi nel portone scendevi di un piano e c'erano le cantine lì, capito? Però per avere l'umidità giusta dovevi fare questo sistema qua, e guarda, facevo dei salumi veramente bene, eccezionali. Però tutte le mattine prima di andare a lavorare io prendevo e bagnavo per terra, oppure bastava metterci una bacinella con dell'acqua. Sì, anche. Però avevo freddo, se non vai la temperatura fredda, scordati di fare il salutino. Ero in Emilia Romagna, era a Parma, io, paesino vicino a Parma, lì sono i maghi dei salumi, a tutti i bimbi. E beh, ma hanno anche la temperatura giusta lì. Tutto che ero in alto, io e tutto in campagna mia. Ma pazzia, a Fura bisognava andare. Qua fa troppo caldo. La mia panzetta soffrendo, ripeta che gli dà la durata, la do con denti, mi devo sentare una taglia dopo. Io sono. Ciao Natalino, buongiorno e buona domenica. Buongiorno Messi, come sta va? Sta va bene. Ça va. Buon Dominique. Qua piove qua. Da lì piove? Yes, sir. Andiamo. Piove. E cosa vuoi fare? Secondo me sta schiarendo, però. Domani dice che dovrebbe fare bello, o dopodomani. Le previsioni dicono da mercoledì e giovedì, poi venerdì e sabato, tempo brutto. Ma nuovo. Io non posso fare niente, l'ha detto che sono dell'aeronautica. Ma noi che siamo sbagliato, no? Può anche darsi. Non so che dirle. No, signor. Ma che ci delusori. Come mai c'è il sole, poi di nuovo si annuvola. È un casino, hai capito? Ma cosa volete dica? Ma è così. Tanto mica comandiamo noi, comanda quello di su. E comandano loro, perché nebulizzano tutto loro nell'aria, capito? Il casino è solo quello, sì, vabbè, bisogna prendere il tempo come viene. Sì, infatti. Ma vediamo un po' come va a finire qua. Dovevo andare anche dalla sorella di mia moglie oggi. Ma se piove cosa vai a fare? Che vuole andare a trovarla perché l'hanno rimessa all'ospedale, aspetta, deve essere lì quella che ha suonato. Dov'è? Lontano. È in chiesa, era mia moglie. È venuta adesso. Aspetta, ma lontano abita? È in campagna abita. Ah, io ho capito. Vabbè, se non fa zeva, gli altri governi andassero, sempre che non piova. Sì, infatti, se non piovi, no, sì, non piovi, ma se piovi, io devo arrivare. Non è colpa nostra, no, il tempo è quello che è. E se non andiamo lasciati, cosa vuoi ti dica, fra? Beh sì, se così sì. Ora dici che in casa sì. Di più vino. Non me la figura. Ma fai uscire quando piove, ti bagni tutto, quando che sei in macchina, però quando fanno giornate così è un casino. Sì, infatti andai in campagna andando piovi e feo. Certo. E non avrà migliorato il suo tempo. Ma penso che sia sempre così, no, che tu dai. Dice che mercoledì migliora. C'è mare brutto pure, c'è levante, cazzo, casino. Neanche a pescare puoi andare. Stata lì! Cogno! Stati bacagna, gna! Vabbè. Natali! Guarda, ti ho mandato il posto di due rosmiti, le 6000 e le 600. Se interessava a qualcuno. Sì, me le avevi mandate l'altro giorno, già le ho viste. Sì. Ok, vado. Sì, a capa. Il 1000 fa da 0 a 1003. Cappa. Vabbè dai Natali che vado a prendermi il caffè un attimo qua. Un attimo che c'è un QTC con la 50. Cappa. Ok. Natali, pensa che sei. Sono qua. 29. Vabbè, era il 29. Sono qua. Il brodo stai preparando. Il brodino di mammo. Ha detto di fare brodino di mammo mia moglie. Non va bene. Ottimo per la truppa. Ottimo e abbondante per la truppa. Ho entrato il suo stamattina, Marcolino, è dormita. E chi su la HPG? No, già entrato un franco, insomma. Boh, non lo sento. Da quando va a Nigeriane, quel Marcolino, boh. Arrivo. Va a Nigeriane, boh, non lo devi cercare più la domenica mattina. Ah, poi di domenica mattina va a Nigeriane. Ah, giusto, perché di notte non le vede. Allora, adesso è dal mattino qua. Di buon'ora, di mattina. Perché la trova fresca e fresca. Ah, gaie, su punto. No, ma poi perché mi fanno lo sconto? Perché dice, no, te lavoriamo forte, se passi domani mattina presto siamo fresche e fresche. E si è convinto lui che la trova fresca. Raga, non va, che è giovane. Sino fa il meglio. Oh, signore benedetto. Oh, sio. A rimane uno non mi intendia ogni due aracchino polmar. Cazzo di aria. Ma dimmi tu. Lo signore ha voce però radionisma. Sì, perché dovresti mettere anche un tipo quegli F22, che microfoni così, capi? Perché se quando il microfono che metti no, entra nella televisione comunque, capito? No, è che non gli puoi fare nulla, non va LC, non va nulla che c'è un cavolo di baracca, è fatto per non essere modificato. Ma promettergli un microfono amplificato però, a me ti sentono di radio. Sì, non lo so se ne accetta pure. Se ci sono contento è fatto per non essere modificato. La puoi fumare un buon pugno e una per ridicito. Non li puoi fare nulla, né a fa potenza, nulla. Ha provato a alzargli la potenza e non usciva più in AM. Ma è un portatile. No, ma la china omologata dalla Polmare. Ed è fatto proprio ZX40 si chiama. Arrigaraddu. Perché non gliel'hai tolta la pettolina con questo computer? 40 Pro o 40 Solo? Pro. Perché sto guardando qui, c'è il modello Pro ZX 40 Pro. E quello lì è. C'è il display blu, c'è il microfono con tre tasti, quello lì è. Quello lì è. Non ci vedono gli attacchi del microfono. Però. C'ha sei punte mi sembra, io ci ho vedere. Va, Ne divido. Va, no. 89 euro. Come il Kimbo, tu e me? L'attacco del Kimbo, tu mi arriva. Allora, 8, non sì. Eia. Sì, perché c'ha lockdown e probabilmente l'alimentazione per microfoni lì. Sì. 89 euro costava, non è più disponibile. È meglio, tanto quando lo usi poi lo tiri al muro. Allora, ho ricordato con prima stessa. Io me l'ho tenuto perché ho omologato. Meno male che me l'ho tenuto perché mi si è rotto il Superstar 3008, capito? 3009 voglio dire. Il 3009 mi sei facciato. Io l'ho giubilato qua a noi e mi hanno indruffato. Devo telefonare. Sì, ma già ci sono le modifiche per quello. Le modifiche, ma non li puoi fare a chi non l'accetta. Ha provato anche Pompugno a farlo. E no, non l'accetta. Ti sto dicendo che è un macello. Non puoi alzarli in radio, non puoi fare nulla. Buono, un 747, la vedi che alza di tutto alza. Ha giudito che non alza. Perché il segnale era forte, il segnale, la potenza c'era, un watt e mezzo già li dà. 10, 20. Però, gatta, di radio non uscivo. Ma se tu li metti lineare 747 tipo, guarda che esce anche di radio. No, guarda. Oh, vedi come esce in radio anche. Che aumenti la radio, stai dicendo tu. Ma. Guarda, questo è normale, ok? Guarda, adesso attacco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedi adesso attaccato qua a Paolo. Sì, già ho visto. Non lo so se con questo fa così però, se gli aumenti anche la radio. Magari si saturo. No, perché c'hai un'entrata bassa, capito? Io sto entrando con zero, sono a zero con il watt della radio. Adesso gli attacco il watt, metto, vediamo un po' quanto esce. Sì, questo mi sa che c'è un watt e mezzo. Il segnale era 9:20. Era. Però radio bassa. Come un batte e mezzo? E un batte e mezzo da questa radio, da dei critici doppie. Questo ZX40. Però radio Nisba. Sai che sto guardando qua nel Baltrano? Sì, anche il Baltrano. È una radio del cavolo. Sì. Quando entra Pompugno diglielo a vedere. Mi ricaparri già quando gli dico. L'ha regalato, ti sto dicendo. Se no ti turbigliava a quelli di Matteo. Mi da tutti due la giubilato, pure uno malocato, io ma che uscisse bene almeno, no? Invece io... infatti siccome è un bel piccolo, no, me lo volevo mettere in macchina, sa buono in macchina, chiccio. Ma non è possibile che sia con un quattro e mezzo Natalino. Baltrano, allora, aspetta, sto guardando le caratteristiche. 4 watt, potenza di uscita è una MFM 4 watt. Sì, sì. Vedate, però più 4 watt. Ma attaccato l'hai al wattmetro? Il Baltrano? No, non l'ho attaccato al wattmetro, non l'ha già manco misurato. Qua. Lasciamo perdere. Se si poteva aumentare almeno di radio. Cazzo, era passabile, da. Adria! Ma manco di radio, vedi? Lì devi provare un microfono amplificato, cioè non lo metti, non lo sai, Natalia. Capito? Ti metti un microfono amplificato. Vedrai che cambia la musica. E proverò. Al limite me lo metto in macchina, perché in casa non fa. E vedo anche quanti watt, lo attacco al watt, mentre vediamo di vedere quanta uscita c'ha. Adesso guardando lo schema per i cosi, l'attacco del microfono. Sì, 8 attacchi va, dai, come ti dice di Rughembro. Vabbè, cercando, aspetta, sono entrato nello schema, sto cercando l'attacco del microfono. Ma allora, nel manuale non ce n'è, proprio nel manuale, non c'è. Sì, vabbè. Già vedo cosa posso fare, per non buttarlo, perché è nuovo. Cazzo, solo che mi va di chi puzzerà a vederlo, ma cosa no? A rimane arrivi 9:20 di segnali da Gio Maria, però non mi sentiva di radio. Che cosa ma... Vai, vai. Mia, mi sembra anche Marco Condor ce l'ha. Buongiorno a tutti, dall'oltretomba Marco che vi parla. È vero che a me mi hanno detto che stai andando a Nigeriani alle 6 del mattino. Così dice che le trovi fresche, è vero? No, no, no, solo di razza ariana, niente nere. Luca, visto hai, cazzo che non è vero che va a Nigeriani. No, infatti va a Nigeriani. io ho capito Nigeriane. Ma che ha 6 poli, Natali, non a 8. Senti, no, sì. Qual è a 6 poli? Oh, mi parlo da 8. Quale? Che apparato? Il format. No, perché c'è l'adattatore da 6 a 4. Capito che c'è, esiste l'adattatore da 6 poli a 4 poli. Però quello della radio appunto è a 6 poli. Io ho capito. Vabbè, è una cazzata, devi scudere solo i canali, Natali, e boh, capito, lo puoi dare, boh, devi scudere. Mi sembra strano, se no me lo porti e ti metto l'FM multi, quel microfono preamplificato che ho io, tanto non lo uso. Aspetti, manda la foto di quel microfono, aspetta. Ehi. Mamma mia, sono cominciato d'ora la ora. Tutta colpa di Marcolino, Io se c'ero dormivo e tuttora mi non è che sia molto sveglio, mi sono svegliato da poco. Ma perché degli occhi non riesco a tenerli aperti, sono ancora nell'oltretomba. Mamma mia come sto. Lì ci vuole un caffè forte nero. Pure vieni qua, ti pigli un po' di bamba da col negro. Vedrai come ti tira su. Poi ho smontato, ho detto non sia che venga temporale con fulmini, ho smontato il 3009 e tutto quanto. E io invece mi è piazzato questo perché ieri arrivava 9:20 da Gian Maria, ma Radio Nisba con l'altro. Sì, comunque non farti problemi, sabato sera e domenica non vengono, non faranno mai a fare eventuali controlli, quindi proprio sabato sera e domenica ti puoi scatenare, capito? Ok, mamma mia, adesso vado a far colazione. Cosa ti volevo dire? Novità del 3009. Ma oggi, detto che viene più tardi. E oggi me lo dirà, perché intanto deve venire qua più tardi e quindi mi dirà se ha scoperto qualcosa. Guardate la foto. Ah, tipo il DM1000M. È un ottimo microfono, è che qua non l'ho messo perché qua ci devi mettere solo quelli normali. Questo è un Inuit, il microfono normale, non c'è bisogno qua, capisci che ho... Boh. Non facciamo uno scambio, io ti do il polma e tu mi dai quello da mettere in macchina. Però questo trubi forte, qua, questi sono tutto al massimo i 6 watt capo. Quello lo faccio trubare forte io, quando ce l'aveva Gigi uno come quello. E poco lo facevo rullare con la voce che avevo. Questo qua. Bello. Cazzo, quello che aveva Gigi era una belva quel baracchino. La via Ganari, di tutto, vabbè. L'abbiamo fatto in continenti così. Se mettiamo quello a Natale di microfono, vedi come tromba. Ma non vuoi, ma lo avvicini, ti faccio gli attacchi. E così lo attacchiamo a 747 anche. Se non posso farvi dai su Ganigat a me. Si mette a abbaiare quando sente qualcosa, mamma mia. Marco ha chiuso gli occhi di nuovo. Sì, adesso scendo giù, gli compro una bustina da quello nero lì e gliela porto, vedrai come si sveglia. Con la bamba. E una svipata, mi dirà, un ghiso naso. Non piace nulla intanto, la bamba. Ma tu non hai visto se c'è una notizia a Marcolino, a Davide Abrumonti? Sì. E chi è Marcolino che vuole dire Abrumonti? Non lo sai? No, ma chi c'è, roba nuova? È Marco che fa degli scoop, lo dice Abrumonti, meno che ci spaccio. Sì. Tanta canzone, la bamba. Ma Briciolo, non l'hai sentito? Deve se sta lavorando, poverino. Mi sembrava a fare 7:19:07. No, allora deve essere uscito, sarà nel mondo dei sogni. Eh sì. Perché non l'ho sentito stamattina, in genere come rientra mi chiama. Non c'era neanche in macchina. No, non ne ha in macchina, no. Adesso non lo so se si è fatto l'impianto per poter caricare il telefono direttamente dalla cartoleria. Nemmeno, mi sembra le foto che ti ho mandato quando ieri mi batto. Aspetta che guardo un attimo la situazione. Vediamo. Le foto che mi ha... Ah, non la vedi. Che hai aperto, che apparecchio è quello? apparecchio è quello, Luca? Quando avevamo fatto la modifica al 7003, che è arrivato vergine, capito? E così che gli ho fatto l'espansione di banda. Un 7003, Natali. Che pagava? Perché non sono tutti che interessa, capito? Quello lì, i radioamatori, molti non interessa. Allora, questo era appunto nuovo di pacca, quando l'ho preso ed era di preso un rivenditore, però siccome era di un radioamatore, mi ha detto no, la modifica non ce l'ha, ha detto non ti preoccupare che me la faccio io. Ho capito, e non li toccano perché non gli interessa la modifica a quelli lì, capito? Piccola ma veramente con una miriade di funzioni, un'ottima radio, capito? Un'ottima radio, realizzato rispetto in tempo reale, veramente, poi tantissime funzioni, c'è persino un analizzatore, una sorta di analizzatore di antenna, capito? Addirittura, bello. E te l'ho detto che funzionano bene, ne hanno parlato tutti bene, 2003. Purtroppo io ne ho tolto di polo, ne ho tolto tutto. Cosa me ne voto? Non so più, né ascoltando né nulla, la verità, Luca, mi hanno disgustato proprio. Infatti mi va giù, c'è omologato, i noghi. Questo che sto usando, più c'ho quella radiolina che mi hai dato tu e l'altro ricevitore, ma sospentimi. Ma Natali, perché scusa, che colpa ne hanno, cioè, la radio o comunque le bande che ti interessa ascoltare, non è un peso da vendere. Se ti hanno tirato male te la devi prendere solo con chi ti ha tirato male, se pensi che quelle persone ti abbiano tirato male, capito? Io ho conosciuto anche quella persona che è passata e mi ha raccontato, anzi ti ha portato in alto anche, cazzo, che c'è qualcuno che però sicuramente ti ha tirato male. Sì, quella persona che è passata, a chi ti riferisci? È una persona, non è di Sassari, ti ha detto tutto. Ti ha vantato parecchio, dispiaciuto anche, ma era veramente, ne sapeva un bel. Non ho capito perché non è passato. Aspetta che ti faccio capire, forse è stato nella zona dove eri tu, in continente, quello lì. Sì. E allora è quello che conosco io, che era con me, da. Sì. Lo conosco quello lì. Io ho conosciuto, eppure è una brava persona, e ho detto, caspita, era dispiaciuto, ho detto, caspita, ne sapeva parecchio, perché appunto mi ha detto che era passato da poco, eccetera, eccetera, no? Siamo entrati nel discorso, è rimasto, anche io sono rimasto male. Sì, ma non sono quelli che stavano studiando con me che hanno tirato male. Gianni va a vedere di basso, ma là. Non penso che sia stata male, che sia stata capito il futuro. Il futurino è una situazionale per la quale ho fatto. No, che tanti bocciocci che si chiedono su di me un teguno, io non sto dicendo quello, io sto dicendo quelli che ti dovevano far passare, capito? No, non ce n'era gente che mi doveva far passare, non ce n'era gente, che non avevo incuzzi di nessun genere, capito? Perché non ne avevo bisogno di incuzzi. Guarda, a me mi hanno bocciato 3 volte e la penultima volta ne sapevo più dell'ingegnere, ne sapevo, figurati, e mi hanno bocciato lo stesso. Cioè anche persone che possono testimoniare, mi, che erano con me, che hanno dato l'esame con me, scritto, mi, no, su internet. Eppure mi hanno bucciato loro stessi, caro lì. Io che faccio il letto, dai. Oltre le autore. Ma scusa un attimino, se tu praticamente tu stai dicendo che quelle domande che ti hanno fatto tu hai risposto giusto, ok? Se tu ritieni di aver risposto giusto, ok, perché ti stai abbandonando a una cosa della quale hai ragione? Quello che non riesco a capire, Nathalie. Se tu hai sbagliato, hai risposto male, hai fatto gli errori, ci sta. E lo devi ammettere, ho fatto gli errori e ci sta. Un conto è non fare errori e quelli mi bocciano lo stesso. Allora sono due cose diverse, per come stai dicendo tu. Sono due cose diverse. Se ti uso cotizzelli, allora non siamo compresi cosa è successo. Hanno voluto bocciarmi tutte e tre volte che sono andato, che ho fatto l'esame. Non perché non ne sapessi o che non meritassi. Loro dicevano, c'era gente che diceva che io parlavo male al baracchino, che non ero degno di poter fare il radioamatore perché ero sboccato e che questo e che quello, capito? E c'è gente che non sa manco dove sta di casa, che è passata. Capito? Che non sa tenere manco il saldatore in mano, mi, che a qualcuno la stazione l'ho piazzata io. Quindi, vedi bene che so a cosa mi sto riferendo. Ho capito, ma quanti mai non ti sei appellato? Cioè, scusami, se io non mi metto, no? E le dico, ma mi fate vedere gli errori che ho fatto? Visto che era a voce o cosa era, fatemi vedere gli errori che ho fatto e allora vi posso dare ragione per la quale mi avete bocciato. Ma è strano, una tecnica cosa, non ti sei appillato. Se tu pensavi di aver fatto tutto giusto, a prescindere che loro ti vogliano bocciare, ma tu ti devi appillare, no? In modo che loro provano che tu hai risposto male a quelle domande, per far sì che ti boccino. È lì che casca l'asino, non puoi mettere né nome né cognome, nulla, non puoi punire, il compito, non hai compreso nulla a due. Così Durani e dalla base di Romani, mi dilla Franco, vedi, se puoi punire nome e cognome, non lo voglio che li dai. Capito? Loro il compito lo danno a che cazzo di bare di bianchi. E c'hanno il coltello dalla parte del manico. Se tutti mi danno i vendiracuri, cazzo da voi mi arrivi la lettera che mi viene bucciato. Che cazzo hai io? Comunque che ha passato il compito mio, è passato, in tre sono passato, dimmi, per merito mio. Ma infatti è quella la cosa strana, cioè la che passano ma merito noi e tu non passi, cioè è una cosa inaudita proprio, Nathalie, che non ha né capo né cosa. Cioè tu praticamente loro ti danno il foglio, tu fai compili, poi glielo restituisci, non essendoci il tuo nome, ti boniti che ti hanno grimmato così, come ti piace, ma mi va un po' strano. E allora di là Franco California, tu, che ha fatto il compito conmigo. Va, siamo parati in pari, mi. Siamo parati a Cagliari. Lì la Claudia, vedi, se il presidente di Lari di Cagliari non l'ha detto, di Cagliari ha un compito migliore, secondo me. E ha fatto il nome mio, però da voi mi hanno bucciato, chissà perché, boh. Ma è troppo strana questa cosa, però se uno fa del nervoso e non sa se un compito per il perché l'ha fatto sbagliato, mi sembra molto strano questa cosa. Allora, cosa ti credi, io mi pongo a studiare così, cazzo, ando impreparato, per andare impreparato non ci andavo neanche, Luca, io sono fatto così, guarda che io, cazzo, non ho aperto il libro per prendermi la dimmi, stavo attento a quello che mi diceva l'istruttore, ha giù fatto un esame, io, cazzo, che guarda, finta l'istruttore di scuola guidata, poi tu rimani in campo. Promosso la prima, figura di cazzo un esame del cazzo di quelli di radioamatore, aiuto. Che mi ne cappa la risa, ne sapevo più dell'ingegnere, ti sto dicendo. Domanda a Claudio a vedere. Claudio Risari Gosi. Ho capito, ma su tre esami, e tu ritieni di saperne più dell'ingegnere su tre, non uno su uno, su tre addirittura, è nata lì, dai, io mi ero appellato, a questo mi sarei appellato, scusa, avrei pensato all'Ambrosio di venire a Puglia, adesso mi dovete dimostrare come e perché, scusa, è nata lì, dai, su tre, no uno, tre, ne hai fatto, e già vedo a uno che viene nei dubbi che ti gribani a Puglia, Ascolta Luca, io non parlo a Vambera, quando io ti dico una cosa, è chissà, ti sto dicendo, non hai trattato tutto, cazzo, non c'ho più un cazzo, proprio per quello, sono nel mirino, non hai capito? Mi hanno disgustato proprio, mi so che va vedendo i nocchi, non lo so come macchio bagosa qua. No, no, ma fai bene a parlarne, così ti deve sentire, capito, si deve anche rendere conto di quello che ha fatto, che ti hanno ingribato senza motivazione, se uno è preparato. La motivazione c'è, se la gente non si fa i cazzi suoi, non ha capito, la gente con la lingua lunga, e che non si fa i cazzi suoi, quella gente può pigliare dal mucciare, non ha compreso. Anche perché in questo modo uno che poi lo vuole dare dice ma se così non ne do con manco, anche intanto dici fate ne passare solo a Capunietti, capito? No, no, ma è meglio che se ne parla, è meglio che se ne parla, perché c'è una cosa sbagliata che hanno fatto e che avete si mi rappellato io. Cazzo, ma secondo te, cioè dopo tutti i mesi che sei giunto in occhio, è tutto canto, da poi ma va e allora sì me. Uno solo, sarebbero quattro le volte, perché una volta non mi sono presentato io, sono andato, ho fatto il corso, a Porto Torres sempre, perché ero iscritto all'Ari di Porto Torres, ero iscritto, quando c'era Mischi ancora, e gli si insegnava, i suoi ragazzi di Lusavero, preparatissimo quello lì, cazzo, siccome ha avuto la malattia mia madre e allora dovevo stare a cui a mamma e non mi sono voluto presentare la prima voce e quindi sono quattro le volte, figurati un po', da quando io sto studiando per poter diventare radioamatore, siccome adesso non mi interessa più a chi mi hanno disgustato, sono peggio delle lavandaie di Rosello, le lavandaie di Rosello sono meglio. Mi avrei messo uno di quelli Aesu 857 che ce l'aveva da poi mi la gioventù e avrei potuto modulare anche dalla macchina, mica mi hanno bucciato, a me sono incazzato, per dirti è passata gente che non sapeva un cazzo nulla a me. Eppure sono passati, come si spiega? Se la gente non studia, chi ribiazzi rumari, i rivemini e non va a andare un corso. Però è passato, pur non sapendo un cazzo. Ma infatti hai visto che ti mette poi il coso, no? Però c'è anche da capire se quella persona lì che non capiva niente magari ha avuto la fortuna di non fare errori, oppure ha fatto errori e l'hanno imbassata all'armatezza, che come dici tu c'è un giro tutto particolare. C'è gente che dice che io non ero degno perché io l'ho sboccato, dicevo le parolacce, ma io le dico in pinzisetti, da voi cazzo si so che manda la radio amatoriale, ma vedo i documenti devo farvi da, che farvi davo in Sassareso. Ma te che da cazzo di Naputo come ti farvi io in pinzisetti, fatti i cazzi dove e la lavate di la lingua con un vicinetto. La so c'è io. Sì, vabbè, ma poi quando sei là, se c'è qualcosa che non va, i radioamatori stesso credo che ti dicano un attalì. Allora qua si parla in un certo modo, non così e cosa, e tu lo sbaglio lo farei la prima volta, se ti scappa pure, perché a banda amatoriale appunto sai regolarti, se ti scappa pure ti dicono loro stessi, o qua parla così o si parla così, se no, capito? Ma quello che ti devono dare te lo devono dare a prescindere. Poi il fatto del comportamento è un altro discorso, che si intende in ogni di cazzati da radioamatori, capito? Fa vedere di pasta e broccoli, eccetera, eccetera, siamo a Pigiva. Cazzo, ci sono la tende, cazzo, rubi banda, come se si fosse un baracchino. Cazzo, che ne dicono di tutti i colori, che io, essendo un radioamatore, a parlare così me ne sarei fatto la vergogna, sinceramente. Questa è una cosa che è giustissima che dici, questo è giusto, perché guarda, te l'appoggio al 100%, perché come ascolti tu ascolto anch'io, solo che loro cosa dicono? Noi ce ne stiamo qua di parlare di pasta e broccoli, così quelli della 27 non possono venire qua da noi, hai compreso come te la pensano? Mica venire in 27, beh, da se si pone in un canale di la 27 a farvi dare pasta e broccoli, no, perché sennò ci passerebbe Natalino a fare ruota, quell'altro a fare ruota. Invece loro stanno lì e possono parlare di pasta e broccoli senza che Natalino o Luca vadano a disturbarli. Allora non l'hai compresa? È un circolo chiuso, non hai capito. Come si fa a dire quando erano in 27? Faziano un circolo chiuso e tu eri escluso. E così sorprendi così. Tu tocca ricazzo una moglie, tutto i suoi voi, ma non tocca lì la frequenza. A chi ti grebbani? Se tocchi la frequenza Reddi. Io te l'appoggio. Anch'io Marco, è così. Infatti il 27 la sera quando passano, accomodi dai, quando non venisci uno che dà, che l'ha già notato, vedi una voce, caffeduno. Senti, prima già mente che dà. E dopo quando non venisci uno che dà, passano i 27, a Raudizzi. Ma ti credono, si chiede alla gente parlo di un naso ancora. Infatti. Io l'ho notato parecchie volte che non c'era gente che gli rispondeva. Perché loro chiamavano lì, no, vedevano che non rispondeva nessuno, a chi pure in chi bisogna sentirsi, non ti credi? E praticamente dopo chiamavano qua, capito? Tu già vi la Roma qui ripundia, invece bisogna non ripundirli, no, che quando chiamano. Tu si impara nella prossima questione di niente. Ma ti perdi niente. Infatti, cazzo, è un miracolo, sto parlando qua. Ne ho stracciato tutto, mi hai visto là quel diploma che avevo fatto multibanda, Marco? Mi hai stracciato, parafutta. Me l'ho tolto, vaffanculo. Non c'ho più nulla. C'ho questo baracchino così, mi ha giocato in tempizia e fa figlia mia, che se no manco lì ci aveva avuto. A chi non 2009 purtroppo mi si è rotto. Vaffanguala, anche a quello. Sì, alla fine uno si rompe bene i fratturi. Io ho fatto colazione, però prima, quando sono entrato, sono rimasto seduto sul divano, mi stavo addormentando sul divano. Ho detto io ho fatto colazione, mamma mia. Se io volevo andare da Nero qua a comprarti una bustina, in modo che ti potevi svegliare bene, con quel nasone mi avresti tirato una suipada, gatta. Con questa tromba di naso. E allora, con quella tromba di naso, gatto, avresti tirato una suipada ed eri stato... puro e sano. Tutto, tutto ti passa, i dolori alla schiena, tutto, mal di testa, mal d'orecchio, tutto, ti fa, ti rimette a nuovo. Comunque Natali, tu sei impulsivo, c'è il dipolo, tu lascialo, piazzalo e lascialo a priori, poi magari, che ne so, di 10 giorni, 9 giorni non vuoi ascoltare nulla e non ascolti, però la volta che vuoi ascoltare il dipolo è già piazzato, capito? E poi invece appena ti girano le palle stracci tutto e poi devi piazzarlo di nuovo, ne stracci tutto, poi devi rimettere di nuovo, tu lascialo pronto all'uso il dipolo, poi anche se ti girano le scatole lo lasci lì, quando hai voglia di ascoltare è già pronto, capito? Allora lo va a fare, l'ho promesso a Franco, l'ho promesso quel dipolo, lo do a lui e se lo usa lui a Fanguala, tanto non c'ho niente per ascoltare, c'ho mi giusto la radiolina che mi aveva dato Luca, c'ho, se voglio me la attacco mi, gli faccio le staffe se voglio ascoltare e mi attacco con l'antenna multibanda della mano. Sì, anch'io non sto più ascoltandomi. La radiolina è mezzo abbandonata, ogni tanto la devo pulire dalla polvere. E a periodi, anch'io sono a periodi, però non la vendo, cioè resta lì a disposizione. Il giorno che mi gira posso ascoltare qualcosina. Luca, riprendi. Sì, ma infatti, cioè, Natalino, penso magari di fare il dispetto a qualcuno, dicendo che lo stacca, che è deguciato. Mi riprendi solo soddisfazione a chi si abbassona, o a quelle persone, Natalino. Intanto, stai tranquillo che se saresti passato per dire certe frequenze, no? Stai tranquillo che non ti avrebbero accettato lo stesso, Natalino. A tutti dinni che non ti viene accettato, già lo usano ieri come tipo, non ti preoccupare. Sì, può darsi buco, oh, ma può darsi anche che io non parlavo con loro, mi. Perché a me piace parlare di roba tecnica, mi così, già mi piace. Ma Fabità di Cazzardi in VHF non mi interessa, mi. Sì, ma infatti, uno che diventa radioattore non è che deve andare a ossequiare i radioattori locali, se capì? Cioè non devi andare a ossequiare nessuno, ti fai attività per conto tuo, se ti piace fare attività, così è. Infatti a me piacciono i 40 metri, mi piacciono. Dove si può fare salotto, che poi dire due parole in croce come si deve, parlare di roba tecnica, no? Di cavolate, dei broccoli, come stava dicendo l'amico Luca qua. E allora, per usare la 27 a comodizzare, ma chi era tratta di così? Via, infatti guarda, a metà filo ogni tanto a chi, capito? E non si va, deve manchi un carro di gioia la 27, sennò faccio a disturbarli. Cazzo, ma ti pare che c'è sto cazzo? Loro sono cazzo un gradino più su di noi, cazzo, chissà cazzo quindi, sì. A me piace sperimentare, il radioamatore sono io, non loro. Le antenne me le costruisco io, non vado a comprarle, non ha compreso. Cazzo, in campagna cazzo ne avevo fatto tutti i colori, c'avevo una stazione io, che se ne ringhia ne ridi Eddi. Che in 80 metri arrivavamo a fondo scala a casa mia, che qualcuno ha fatto la lista per nominativo, li chiamava a chi gli mancava la salsina, hanno compreso. Lì prima sì che aveva una posizione, lo so, adesso qua si è troppo vincolato, troppo Natalizio è vincolato, poi dipende sempre da uno cosa vuole fare, però se ci avessi passato ti avessi mangiato le dita a morsi perché non puoi fare più di tanto, capito? Poi ripeto, dipende uno anche da cosa vuole fare. Però tipologia di antenne, tu sei quasi a zero mia Natali lì, sei vincolato a zero proprio, caspita. Questo va nulla, nove luogo, già hanno fatto luogo per punire apparecchi, infatti non c'ho più nulla per quello. Ho dato tutto, che cazzo me ne sbatto. Cazzo, c'avevo un ICOM, cazzo che era una bomba. Caracas. C'ho ancora il 4.40, quando me lo metti a posto mi lo tocco subito fin dentro. Che me lo posso in dire, ho tagliato la sì. Sì, a me mi piaceva quando ero in campagna sperimentare, mi facevo le antenne, me le piazzavo, me le comparavo, insomma ne facevo di tutti i colori, ne facevo, figurati. Poi c'era quell'amico mio che veniva a casa mia a farsi di ex, perché lui non aveva antenne e quindi, cioè non aveva posto per mettere le antenne, infatti gli avevo fatto l'antenna multibanda che gli mancavano gli 80 metri perché proprio non aveva posto, aveva tutte le altre bande meno che gli 80. E beh, tutta un'altra musica era lì, tutta un'altra musica, sì. Vabbè, avrei avuto le tue ragioni per trasferirsi qua, però la campagna sì, c'è lavoro da fare, però da altre parti ci sono delle belle cose che puoi fare. E lo so, lì c'avevo il posto, cazzo Mario Dardan, lì in Diripoli, cazzo, c'ho un'antenna in campagna, una 8 elementi VHF, la UHF l'avevo regalata a un amico, non so quanti elementi era quella lì pure, cazzo. Dico così, mostruosa quell'antenna per VHF, direttiva, cazzo, ma avevo fatto il ballo, ma avevo fatto tutto, cazzo, dico così, tutti io mi vado io. Ci ha fatto cazzo quel coso per l'antenna multibanda qua, che mi hanno fatto anche i complimenti, dice sembrava comprata, invece l'ho fatta io, ce l'ho qua, mi tiro voto, vedi, l'ho comprata io, quella scatola dove ci ho messo il toroide e tutto qua. Io ho mandato la fotografia a un amico che è tecnico, ma cazzo, complimenti Natalia, sembra comprato. Quello che ho visto anch'io. E allora? Quello me l'ho costruito io. Sì, infatti sembrava anche tutto il filo elettrico dentro, no, passato intorno all'antologia, sembrava fatto industrialmente, capito? E invece l'ho costruito io e c'ho le prove, perché come ho smontato il dipolo, il cavo lo do a Franco per farsi il dipolo, no? Però quella scatoletta ce l'ho qua, ti la posso vedere, quando ti pare ci viaggi, viene in occhi, la primo e ti posso vedere, ti l'ho giù fatta io. Caspita, io stavo pensando lì in campagna da mia zia, no? Lì ci sarebbe il potenziale di fare una bella stazione. E lo spazio c'è, si può intendere di tutto, di poli, di tutto e di più. Anche per il solo ascolto, è che io non ci abito lì, quindi sarebbe sprecato, però caspita, conoscere quello spazio ti puoi fare un dipolo full size per gli 80 metri, caspita. Se ti sto dicendo, in 80 metri arrivavano a fondo scala a casa mia, peccato che è morto Salvatore, quell'amico mio che saliva, io stavo al computer e lui parlava, perché lui aveva la patente e lo poteva fare. Ti sto dicendo, un demonio, mi l'ha visto anche Gianni Doppio Rummi, ha visto Salvatore facendo DX in campagna mia, che io dal computer andavo sul cluster io, perché andava col suo sicuro, non è come qua, è di Zambiani cazzo, a punto sicuro, a vera che non vera in Chivi, chiamava Neghito Ripundia, tu Luca già lo sa come funziona. Sono venuto una volta in campagna, non ti ricordi, con il trattore, non mi ricordo per quale, mi sembra che avevi fatto una 5 bande, mi pare, che ti serviva a analizzarla. La G5RV avevo fatto. Io me lo ricordo, sono venuto in campagna, c'avevi il 4.40 all'epoca. Ehi, c'avevo l'857, c'avevo il Galaxy Saturn, ma avevo una stazione di Sogodizelli in campagna, qua, non può vantarmi, però i più vuoti da chi. E senza lineare, lineare non ne ho mai attaccato. perché non mi piacciono i lineari. Troppo facile con i lineari. Cazzo. Abbiamo collegato l'isola Svalbard. Non so se merendo, se faccio colazione. E c'ho la QSL io da SWL, no? Di quello lì. Perché gli ho mandato la mia QSL e lui me l'ha rispedita, la sua. Me l'ha ricambiata. Quella è una gran cosa, vedi? Perché secondo me ci sono molti radioamatori che se ricevono la QSL tua, non che tu l'hai ricevuto, certi non rispondono. Se non è un radioamatore vero che risponde proprio fisicamente, non manco rispondono alla QSL. E poi ci sono alcuni invece anche molto corretti che rispondono persino agli SWL, e quello è bello. È bellissimo ed è corretto. Cazzo, se ho fatto 4 diplomi io, che se li sognano certi radioamatori da SWL, mi come era burghiroso. E non sto scherzando, ne ho uno attaccato qua, me te lo faccio vedere, Marco, perché gli altri tre li ho lasciati in campagna, non me ne sbatte un cazzo, però 4 li ho fatti. Ah, Natale. Oh, dimmi lui. Ah, c'era qualcuno geloso che passavi a parlare di VHF. Sì, più di uno veniva iluso. Luca, cosa hai fatto? Sei 9. Aspetta, adesso guarda un po'. È 747 questo. Ah no, vabbè, io te l'ho detto Luca, per, non sia che fossi con mezza antenna, che ne so, o colpo a caso solo. Se no già va bene, ti ricevo bene lo stesso. No, era per capire se c'avevi un problema in antenna. Mi. No, aspetta, adesso quant'è? Tipo 9.15, è che c'ho gli occhi pieni di cispe, prova. Guarda, così acceso, così spento. 9.20, qua sto smitter, se passi da 9, quasi 9 a 9.20 mi sembra un po' troppo l'incremento, però così mi segna. Ok. Sì, in quella campagna tante cose belle avrei fatte che ma non fa, non è proprio roba mia, e prima che si buri e ci butti tutto nel cassonetto, meglio non calcare la mano. Ah, ti ha buttato l'MPG nel cassonetto. Sì, per sbaglio, sicuramente per sbaglio era in qualche busta nera con tutta quella robaccia un po' elettrica, un po' vecchia, magari è stato scambiato per roba vecchia. Vabbè, pazienza, tanto mi, in realtà di accordatore non ne ho bisogno. E dirla tutta, quello era anche un accordatore veicolare, lo strumentino era un po' piccolo per la vista che ho adesso, per dire. Sì, è bello che volendo potevi accordare, che ne so, sul canale 300 sopra, 300 sotto, però alla fine chi ci va a parlare là? Però in HF funzionava bene, cioè, se tu ci avvii già un'antenna tarata a centrobanda, che ne so, 7100, bastava un tocco di quello e tutta la banda era disponibile. Vabbè, ovvio, no? L'accordatore fa il suo lavoro. E comunque la Proxel Pro X1 una volta l'avevo provata. E praticamente se la taravi a 7100 ti faceva 7150 con l'SVR agli estremi pari o inferiore a 2, quindi già quei 100 kHz te li potevi fare. Ovviamente se andavi un po' oltre, conta di una veicolare, quindi strettissima di bance, dovevi andare oltre e accordarvi tutto lì. E cosa ti volevo dire? Ma c'avevo una cosa che ti dovevo dire, mi è